Lei non ha speranze? No. Vive giorno per giorno? Vivo giorno per giorno, sì. Non ho più quelle speranze che sono alibi, ecco. Questa società che lei non ama, in fondo le ha dato tutto, le ha dato il successo, l'autorità. Il successo non è niente. Il successo non è niente, che cos'è? Dare un successo è una forma, è l'altra faccia della persecuzione, non so come dire. E poi il successo è sempre una cosa brutta per un uomo. Può esaltare al primo momento, può dare delle piccole soddisfazioni, certe vanità, ma in realtà dopo, appena ottenuto, si capisce che è una cosa brutta per un uomo il successo. Per esempio il fatto di aver trovato i miei amici qui alla televisione non è bello. Per fortuna noi siamo riusciti ad andare al di là dei microfoni e del video e a ricostituire qualcosa di reale, di sincero. Ma come posizione, la posizione è brutta e falsa. La televisione è un medium di massa. E il medium di massa non può che mercificarci e alienarci. Ma oltre ai formaggini al resto, come lei ha scritto una volta, verso di un rapporto da inferiore a superiore.